Proprio la settimana scorsa abbiamo ottenuto un importante riconoscimento da parte del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto ad ASGI la legittimazione attiva, cioè la possibilità di impugnare una serie di provvedimenti governativi, perché ASGI è un'associazione che rappresenta e tutela i diritti dei richiedenti asilo, anche se questi richiedenti asilo ancora non sono entrati in Italia, ma come dire, potenzialmente potrebbero entrare in Italia per accedere alla procedura di protezione internazionale. Si trattava specificamente del cosiddetto Fondo Africa, che è appunto stato stanziato dal governo al fine di cooperazione internazionale con i paesi africani in via di sviluppo, ma che di fatto poi è stato utilizzato per la somma significativa di 2,5 milioni di euro per finanziare questo accordo con la Libia, in cui l'Italia ha sostanzialmente dato questi soldi per mettere in sesto e poi consegnare, previa anche preparazione del personale libico, queste motovedette che poi sappiamo che cosa fanno lungo le coste libiche, che sono state appunto protagoniste di gravi fatti internazionali e appunto quello che emerge con sempre più evidenza, gravi violazioni dei diritti umani a livello internazionale. Noi abbiamo impugnato il Fondo Africa perché, diciamo, se questi soldi dovevano essere utilizzati per la cooperazione internazionale, noi li stiamo utilizzando, l'Italia li sta utilizzando sostanzialmente per finanziare un governo che sta ponendo in essere delle vere e proprie violazioni di diritti umani a livello internazionale. E tra l'altro aggiungiamo uno degli elementi più rilevanti del nostro ricorso, che questo tipo di finanziamenti vengono fatti ad un paese che attualmente si trova in uno stato di guerra civile, e c'è un regolamento dell'Unione Europea che prevede un embargo nei confronti della Libia, nel senso che i stati membri dell'Unione Europea non possono finanziare né direttamente né indirettamente questo conflitto in atto. E chiaro è che se noi utilizziamo i soldi destinati per la cooperazione per dare delle motovedette ai libici, è chiaro che poi i libici di queste motovedette fanno quello che vogliono, e tra l'altro, come stiamo vedendo, le stanno utilizzando in violazione del diritto internazionale, consolidando l'autorità governativa riconosciuta a livello internazionale, consolidando il proprio potere politico e a questo punto anche militare in uno scenario di evidente conflitto civile. Quindi stiamo finanziando una delle due parti che è in conflitto civile con l'altra. Questa non è, come dire, l'unica azione giudiziaria, perché c'è anche il decreto poi convertito in legge Minniti Orlando e alcuni profili di, come dire, legittimità costituzionale. Sì, dunque, noi abbiamo da subito, è appena entrato in vigore il processo, cioè ad agosto dell'anno scorso, abbiamo subito detto noi andremo fino in fondo, vogliamo che questo decreto sia dichiarato incostituzionale perché riteniamo che ci siano una serie di profili di evidente incostituzionalità. Abbiamo presentato nel mese di dicembre due ricorsi in Corte di Cassazione, visto che, come dire, i tempi sono molto brevi perché il decreto Minniti Orlando ha di fatto abrogato un grado di giudizio in materia di protezione, dei giudizi in protezione internazionale, e davanti alla Corte di Cassazione abbiamo sollevato alcune questioni di costituzionalità. Ora, la Procura Generale della Corte di Cassazione ha riconosciuto che effettivamente c'è un fumus di incostituzionalità di questa norma e ha chiesto alla Corte di Cassazione di fissare l'udienza pubblica affinché appunto si possa discutere queste questioni di costituzionalità. È notizia di ieri, meno di 24 ore fa, che la Corte di Cassazione ha fissato l'udienza pubblica per discutere sulla legittimità costituzionale del decreto Minniti il prossimo 27 giugno alle ore 10 in prima sezione civile, quella della sezione competente. Quindi se all'esito di questa udienza la Corte di Cassazione si dovesse convincere che effettivamente ci sono dei profili di incostituzionalità del decreto legge Minniti, noi avremmo messo sotto processo il decreto Minniti, perché a questo punto la Corte di Cassazione porrà alla Corte Costituzionale una serie di questioni affinché l'organo competente, che è appunto la Corte Costituzionale, decida definitivamente sulla costituzionalità o meno del decreto Minniti. Se consideriamo che tutto questo noi siamo riusciti ad ottenerlo, e questo già per noi è un grande successo, soltanto a distanza di 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto Minniti, questo significa, almeno per il momento, noi siamo convinti di questo, che abbiamo delle buone ragioni da vendere. Lei citava il 27 giugno, qualche giorno dopo, il 4 luglio, invece c'è una questione che riguarda invece un ricorso presentato da alcuni parlamentari. Sì. sempre nell'ambito delle politiche poste in essere da Minniti, ed è la questione poi principale rispetto a quella del Fondo Africa. Sappiamo che l'Italia ha stipulato questo accordo con la Libia, un accordo che evidentemente ha come obiettivo quello sostanzialmente di non far entrare nel territorio europeo tutti i migranti che vogliono chiedere asilo in Europa e in particolar modo in Italia. E siccome questo accordo è un accordo internazionale di natura politica, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione questo accordo doveva essere autorizzato alla ratifica dal Parlamento italiano, ma siccome il governo non ha mai presentato al Parlamento questo accordo per l'autorizzazione alla ratifica, in verità il governo non aveva neppure reso pubblico il contenuto di questo accordo, alcuni parlamentari, in particolar modo dei gruppi che nella scorsa legislatura facevano capo a Sinistra Italiana e a Possibile, e che poi sono confluiti appunto nel gruppo Liberi Uguali, hanno dato il loro sostegno affinché sollevassimo un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, il cui obiettivo è sostanzialmente questo. I parlamentari dichiarano che è stata violata la loro prerogativa costituzionale, perché avrebbero dovuto discutere, approvare ed eventualmente modificare l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo con la Libia. Siccome questo non è stato fatto e siccome il governo non ha mai presentato al Parlamento questo accordo affinché lo votasse, questi parlamentari appunto hanno sollevato questo conflitto di attribuzione, noi ovviamente abbiamo scritto ricorsi, chiedendo appunto che la Corte dichiari l'incostituzionalità di questo comportamento del governo e che quindi conseguentemente dichiari nullo, inesistente, un accordo che non poteva essere stipulato secondo questa procedura e che tuttavia, nonostante il Parlamento non si sia espresso, in questo momento è vigente, perché sappiamo bene cosa succede lungo le coste libiche.